di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Buonasera a tutti amici telespettatori di Radio Alma, siamo in diretta, oggi è il 3 giugno 2013 e noi siamo qui dalla Maison de Culture de Saint-Gilles a Bruxelles. Eccoci qui. Allora, cari amici telespettatori, riconoscete qualcosa di diverso? Sì, lo so che voi siete molto molto attenti. Ebbene sì, avete indovinato, c'è una nuova voce. E non è l'unica, c'è qualcuno. Buonasera. Eccola, eccola. E non siamo soltanto due donne, perché siamo state fortunate, abbiamo anche un uomo nella squadra. Buonasera a tutti, buonasera. Wow. E che voce, ragazzi. Eccoci, allora, subito i nostri nomi. Rossella, Tiziana, Leandro. Eccoci, siamo una nuova squadra di Radio Alma, ragazzi, che vi faremo compagnia e vi allieteremo per qualche lunedì del mese. Ed eccoci qui, quindi ci conoscerete piano piano e speriamo di rallegrare i vostri lunedì. Quindi ci presentiamo poco poco. Io sono Rossella, sono siciliano, 30 anni, abito a Bruxelles da 3 anni. Ho una grande passione per la cucina, per la musica e sono una persona molto estroversa. Sì, come dicono i miei amici, sono calma come un vulcano in eruzione. E passo la parola a te, Tiziana. Bene, bene, bene. Buonasera a tutti. Io sono Tiziana, anche io siciliana. Vivo a Bruxelles da un anno e mezzo circa, ho 33 anni, lavoro qui. Bruxelles mi piace, anche se lo so, lo state pensando tutti, e tutti me lo dicono non appena dico che Bruxelles mi piace. Il tempo non ci pensiamo, sì, il tempo di Bruxelles non è il tempo della Sicilia, ma diciamo che io mi porto il sole dentro, quindi non ne ho bisogno, lo sprigiono e lo dono agli altri. Grande qui a Bruxelles Tiziana, che ne hanno bisogno. Benissimo. L'uomo della situazione qua sono io, Leandro, sono anche io siciliano e vivo qua a Bruxelles, in questa ridente e assolata città, da un anno. E devo dire che la cosa bella di Bruxelles, è fra le tante, è che è una città italiana, nel senso che gli italiani siamo la terza comunità come numero di persone che ci vivono, e quindi niente, che cosa facciamo? Mangiamo, precuciniamo, Tiziana e Rossella sono cuoche fenomenali, e diciamo che una volta che praticamente abbiamo cenato una volta insieme, insomma, una canzone che ci rappresentava, che abbiamo capito, sì, abbiamo che scelto praticamente un po' insieme, perché dai, diciamolo, siamo tre siciliani, l'avete capito? E vabbè, siamo tre siciliani, che però abbiamo qualcosa in comune, come molti di voi probabilmente. Viviamo un po' in un equilibrio stabile, diciamola, mettiamola così. L'equilibrio c'è, però siamo molto flessibili su. E quindi sì, la nostra canzone, Leandro, è Franco Battiato. Franco Battiato, cerca un centro di gravità permanente. Olle! Ricordiamo i nostri numeri. Sì, dai, ricordiamoli un po', Tiziana. Allora, il numero per telefonare qui in diretta e interagire con noi è 02-345-2656. Telefonate! E potete anche inviarci messaggi allo 047-91-35-564. Benissimo, la pagina Facebook arriverà, ragazzi. È in rodaggio. Abbiamo un pochettino di problemi in questo momento con internet, però cercheremo di risolverli, piano piano. Piano piano. Grazie, Leandro, con la tua voce calma ci hai riportato alla tranquillità. Eccoci qui, quindi ragazzi, questa sera di cosa parliamo? È una bella domanda. È il 3 giugno oggi. Oggi è il 3. È il 3 giugno. Ieri era il 2 giugno, un giorno importante in Italia. Io direi proprio di sì, ragazzi. Noi viviamo fuori, però non ce li scordiamo i giorni importanti dell'Italia. No, anzi, per noi forse che stiamo fuori è ancora più importante ricordarci quanto è bello, quanto è importante sentire l'italianità e celebrare la festa del nostro paese. Quindi sì, Parliamo un po' dell'Italia, che ne dici, Tiziana? Sì, come prima puntata diciamo abbiamo un obiettivo molto modesto. Sì, ci siamo tenuti bassi. È un obiettivo, è un tema sensibile. L'Italia, quanto è bella l'Italia, l'Italia che ha i suoi problemi, l'Italia che deve farcela, però che ha anche tante cose belle e tante risorse per potercela fare. Sì, è un'Italia brillante di colori. Sì. Bene. Senti, allora vediamo un po', ragazzi, sappiamo che forse ne avete sentito parlare un po' abbondantemente di questa ricorrenza, però noi ci siamo detti perché no, perché non fare una puntata un po' dedicandola all'Italia, quindi mettendoci un po' di canzoni, di brani musicali e quindi parlare dell'Italia in termini di canzoni, in termini di cucina, in termini di viaggi, di paesaggi. L'Italia ha talmente tanto da offrire che non penso che non faremo in tempo a parlare di tutto quello che vorremmo. Ci proviamo, dai. E inoltre diciamo che non siamo da soli, perché qui in ospite abbiamo qualcuno che d'Italia e d'italiano ne capisce un bel po'. Però dai, non svegliamo tutto, aspettiamo, piano piano, passo dopo passo. Esatto, e quindi sì, ricordiamo un po' la ricorrenza del 2 giugno, ragazzi. Allora, appunto, se, come sappiamo tutti, ieri è stato il 2 giugno, la festa della Repubblica, una festa che per noi italiani è importante quanto per i francesi il 14 luglio, la presa della Bastiglia, il 4 luglio per gli Stati Uniti, perché significa la nascita della nazione. Dopo 20 anni di dittatura, dopo una guerra mondiale, l'Italia ha voluto rinascere dalle sue ceneri con un referendum in cui per la prima volta, ragazze, questo lo dico soprattutto per voi, per la prima volta le donne hanno votato. Il 2 giugno 1946, durante la scelta del referendum, sono state sicuramente determinanti per scegliere la Repubblica. Non solo, ma in quel giorno si è anche scelto si sono scelti i rappresentanti dell'Assemblea Costituente della nostra Carta Costituzionale. La nostra Costituzione è una delle più belle del mondo. D'accordo, Leandro. Ed è proprio per questo, ragazzi, che abbiamo scelto per voi una canzone un po', sì, un po' nuova, un po' magari sicuramente particolare. Particolare, di Shapiro, 11. Oggi di che colore sei? O meglio, quale indosserai? Lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Ed eccoci in onda, ragazzi. Quindi, che ne dite? Vi è piaciuta questa canzone? Lui è Shapiro, è praticamente un'icona della musica degli anni 60, di origine inglese, che canta queste canzoni con questo accento italiano. E allora l'abbiamo ascoltata e ci siamo dette, dai. Italiane con accento straniero. Pardon, con l'accento inglese volevo dire. E quindi lui diciamo che ci ha fatto ricordare insieme i punti essenziali della nostra Costituzione, perché è così alla bella, fine è così, dai, ricordiamocela con la musica, è stata una bella cosa. Che ne dite voi che ne dite, ragazzi? Telefonate, mandate messaggi. Sì, Tiziana, ripetici i numeri immediatamente. Ricordiamo i numeri per telefonare qui in studio. Potete comporre lo 02 345 2656. Mentre invece, se volete mandare un SMS, potete farlo allo 04 791 35564. Benissimo. E allora vi dico subito che abbiamo già avuto la prima telefonata e la prima richiesta. Wow. Andrea, che salutiamo. Ciao Andrea, grazie. Ciao, per essere stato il primo e fai complimenti, dite che siete bravissime, ragazze. Grazie. Allora, Andrea, tu sì che sei bravo. Vuole dedicare una bellissima canzone, Una rosa blu, di Michele Zarrillo, a una certa Loredana. Che dite? La mandiamo, ragazze? Eh sì, Loredana. Come possiamo non mandarla? La prima richiesta, la prima telefonata. Loredana, allora, questa è per te. Goditela. Ah, Ci siamo ragazzi, scusateci qui. I previsti non mancano, la prima volta, siamo tutti emozionati. Vabbè, Loredate, con internet, cerchiamo di risolvere. Loredate, dico una cosa, è finita un po' a schifio, come si dice da noi. Va bene. Aspetta, perché arriverà anche la tua canzone. Nel frattempo noi continuiamo. Sì, continuiamo un po' a parlare di quello che stavamo dicendo un po' prima, Tizia, perché beh, gli italiani, quando si dice Italia, quante cose sono legate. Non sento più niente. Siamo qui. Eccoci, scusateci, ci sono dei chip e chop che vengono e parlano a destra e a sinistra. E quindi sì, quante cose ci sono da dire sull'Italia? Possiamo partire. Il cibo. Italia uguale cibo, uguale mozzarella, uguale lasagna, uguale... che esportiamo in tutto il mondo il cibo italiano. Quanti ristoranti ci sono in giro, per fortuna, italiani? Beh, no, dai, per fortuna no, che ne dici tu, Tizia? Ristoranti in tutto il mondo, dai, i ristoranti italiani sono conosciuti in tutto il mondo, la cucina italiana, chi è che non ha sentito che sei italiana e non ti ha detto preparami una bella pasta asciutta? Però come cuciniamo io e tu, nessun ristorante italiano, sono sicuro che Leandro sarà d'accordo. E poi ancora, che cosa c'è di italiano? La musica, no? Ramazzotti, Bocelli, Laura Pausini... La musica italiana è conosciuta in tutto il mondo. Chi di voi non si è trovata in Germania, magari a comprare un paio di scarpe come me, e nel frattempo che provavo le scarpe si sentiva una bella canzone di Tiziano Ferro. Ma perché il metro io la sento sempre, ero Ramazzotti in metro. Ramazzotti sì, è uno dei più amati, che sì, poi loro Pausini è famosissima in tutto il Sud America, ricordiamoci che lei ha tradotto moltissimi album ed è in realtà una delle cantanti più famose dei paesi del Latino America, che anche loro insomma sono sempre canzoni d'amore, quindi vanno molto bene con i paesi del Sud America. E che cos'altro? È la moda italiana, no? Che dici? La moda italiana è famosa in tutto il mondo. Pensa che mi è capitato anche qui a volte di parlare con delle amiche, magari mi vedevano una cosa addosso, mi dicevano che bella questa cosa, ma dove l'hai presa? E io gli dicevo, l'ho presa in Italia, non l'ho presa qui. Ovvio. E poi ci dicono che noi siamo sempre attenti, ed è vero, siamo molto attenti al look, ma anche i francesi sono attenti al look, però dai. Come si riconoscono i ragazzi italiani? Lanciamo un contest. Ragazzi, mandateci un SMS. Come riconoscere un italiano in una giurma, in una grande piazza? Qual è l'italiano? Indossa qualcosa di molto particolare. Io lancio questo contest, vediamo chi indovina. Dai, mandateci un SMS al numero 0479 135564. Bene, e ora passiamo a un altro argomento. Io direi che la lingua italiana è pure una cosa molto importante, soprattutto perché noi italiani siamo famosi per il fatto di gesticolare moltissimo. Sì. Chi di voi non vi ha... Il primo straniero che dice italiano vi fa il segno con la mano, ma che voi, ma che stati. Ebbene sì, no? Che sì, a volte mi hanno detto recentemente, ma molto spesso mi succede, che inizio a parlare, inizio a gesticolare come al mio solito, come da buona italiana, e le persone mi dicono, prima di tutto... Si riconosce il fatto che tu sei a volte gesticolo pure quando parlo in francese. Ah no, per forza, quella gestualità è una cosa che poi ti porti dietro, non puoi sì, smettere. Sì, e a volte anche parlando in inglese mi dicono sei italiana e io gli faccio "Ma io ho detto due parole, come l'hai capito?". No, capisco bene, io ho avuto anche un po' di problemi al lavoro con i capi tedeschi, a un certo ragazze, punto mi hanno che facciamo? Proviamo a riprovare questa canzone. No, proprio quando stava di dalla capa tedesca e metti questa canzone, vai Leandro. Vediamo. Ci proviamo. Dai. Lorela. Bisogna fare, saper ragazzi. Aspettare nella vita, ragazzi. Ci vuole pazienza, costanza e determinazione. Sempre. Ce la si può fare. Babbo. Se no, dai, no, sì, che ce la faremo. Vabbè, allora io magari accennerei prima che Leandro lavare, perché la rosa blu per il momento sta crescendo nell'aiuola, ma l'andremo a raccogliere e la porgeremo in dono. Scusaci Andrea. Allora, quindi dicevamo, quindi la lingua italiana, e con noi qui in studio abbiamo una persona che di lingua italiana, diciamo, ne sa un pochino. E con noi qui Irene Dei. Buonasera Irene. Buonasera Rossella. Buonasera. Allora, Irene, dovete sapere che è una professoressa di italiano per stranieri. E dici un po', Irene, qual è il tuo lavoro adesso? Che mi dicevi che insegni da 10 anni, se non sbaglio. Sì, io insegno da 10 anni, sto a Bruxelles da 3 anni, mm-hmm. E prima ho vissuto per diversi anni in Irlanda, dunque ormai sì, sono quasi 10 anni che insegno l'italiano. E è una cosa che mi piace moltissimo ed è un mestiere, è un vero e è proprio lavoro sì. Anche se qualcuno continua a pensare che non sia così. In che senso che non sia così? Ma senti Rossella, in Italia il mestiere di insegnante di lingua italiana non è neanche contemplato. E all'estero esiste, ma non è veramente riconosciuto. Ho capito. Dunque, anzi, le persone, soprattutto gli italiani, è incredibile, ma quando sentono, mi chiedono che lavoro fai, io rispondo insegno l'italiano, mi chiedono letteratura italiana, io dico no, lingua italiana. Capito. E la risposta è sempre, ah... Eppure è una cosa così bella, dai, raccontiamo un po', secondo me i nostri telespettatori sono curiosi di sapere come ci siamo conosciute io e tu, perché voi dovete sapere che io e l'Irene ci siamo conosciute a Dublino nel 2008, perché io andai a fare un tirocinio all'Istituto di Cultura Italiano e trovai questa insegnante che era una carica esplosiva di, sì, Irene, di energia, di idee, di fantasie, e io seguì con lei alcune lezioni e rimasi veramente sconvolta dalla maniera, della tua naturalità in cui tu insegnavi ai tuoi studenti, le tue idee per fare partecipare tutta la classe, perché insomma dai, è noioso venire a un corso di lingua, soprattutto se ci vieni perché devi lavorare, perché te lo richiede il lavoro, sì. Soprattutto se a te non ti interessa proprio. Quanti studenti hai avuto che magari non erano proprio innamorati della lingua? Beh, devo dire che, ti dico la verità, gli studenti che decidono di studiare l'italiano in realtà vogliono studiarlo, è una loro decisione molto forte, perché l'italiano, ahimè, devo dire, non ha una grande utilità dal punto di vista professionale, cioè non si studia l'italiano per dei motivi pratici, sì. Si studia l'italiano per amore della lingua, moltissimo. Quindi la maggior parte è la prima ragione. Ed è incredibile. La seconda ragione, ma forse la prima, mm-hmm. è naturalmente ho un fidanzato o una fidanzata italiani. Certo, l'amore, noi italiani siamo i primi, sì. E dimmi un po', io ricordo, no, quando facevamo le classi, no, quando tu chiedevi a questa classe di 10-20 persone perché studi l'italiano, insomma c'erano saltano fuori un po' le motivazioni, sono le più disparate. Mi ricordo una in particolare, la più assurda di tutte credo, era un uomo che studiava l'italiano perché doveva fare una orazione funebre in italiano. Non è vero, non ci posso sì. credere. Qual è stata la tua reazione? Ma quando questo è il tuo lavoro bisogna anche sapere rimanere abbastanza seria anche di fronte a cose veramente inaudite. Dunque sì, sono rimasta seria. Chiaro. Ci siamo riusciti. Eccolo, certo. Ecco la rotella. Andrea. Eccoci in studio, amici telespettatori. L'ho rifatto! Vabbè, allora, questa sera sto imparando una parola nuova, radioascoltatori. Ma sì, Rossella, meno male che ci sono i nostri amici. Meno male che ci sono i nostri amici su Facebook, che ci hanno ricordato che, insomma, si direbbe pure radioascoltatori. E vabbè, per fortuna io ho l'insegnante di italiano che mi ha spiegato immediatamente la differenza. E quindi ringraziamo a tutti i nostri amici che ci seguono da Facebook. Quindi Giampaolo, grazie Giampaolo, grazie Angelo, grazie Michelangelo, grazie a tutti ragazzi. E torniamo in studio, torniamo in studio, torniamo con Irene. Irene, dimmi un po', io stavo pensando però, quanti di questi studenti tuoi o quante di queste persone studiano l'italiano perché vogliono partire in Italia, vogliono viaggiare? Il turismo, quanto è importante, quanto incide? È importantissimo, Rossella, il turismo è veramente importante, è forse la terza ragione per cui gli studenti studiano l'italiano. Sì. La prima abbiamo detto, lo ricordo, l'amore per la lingua. Per la lingua in sé, sì. Per la lingua d'Italia. Per la lingua italiana. Il suono della lingua italiana. Il motivo numero due, l'amore per il fidanzato, la fidanzata, marito, moglie. E il motivo numero tre è in effetti il turismo. Allora, non vi è mai capitato di sentire in un bar un turista, in un bar italiano naturalmente, un turista che arriva e chiede panino, pasta e cappuccino? Come no? È a me fanno a impazzire, sì. Come no? Sì. Come si fa? Vabbè, e da lì riconosci subito che hanno probabilmente appena fatto un corso di italiano fresco fresco. Ma spero di no. No, di sicuro, non ho dubbi che non potevi essere tu la professoressa. E quindi sì, eccoci, parliamo un po' di turismo, ragazzi. Ma abbiamo, perché abbiamo una telefonata, abbiamo delle persone che ci parlano in modo con cognizione di causa e spiegandoci le motivazioni. Esatto, sentiamo un po'. Pronto, pronto, chi è in linea? Pronto? Sei pronta o sei pronto, chiunque tu sia? Oh, arriverà, noi continuiamo a parlare, perché il turismo è una di quelle cose, diciamo, che, in cui l'Italia eccelle, diciamo che è uno dei paesi più gettonati come meta turistica. Roma, Napoli, quali altri posti meravigliosi, la Toscana ad esempio. Irene, tu di dove sei? Io sono Rossella, sono toscana, sono dici un po'. Sono di vicino a Firenze, lo sentite dalla sci. Ah, che ci piace noi, la sci di Firenze. Sì. E quindi dici un po', ad esempio, io mi ricordo, tu mi raccontavi quanti stranieri stanno in Toscana, hanno comprato magari delle case, degli agriturismi, e si sono innamorati poi. Ah sì, beh, la Toscana è una regione famosa per essere stata quasi invasa. Addirittura era chiamata, non so se lo sai, ma il termine era la Toscana Chianti Shire. No, assolutamente no. Quindi sono stati i nostri amici dalla Gran Bretagna? Anche i nostri amici dalla Gran Bretagna, certo. Che se siamo fortunati pronunciano Chianti Shire, se siamo molto sfortunati invece pronunciano Chianti. Oh my God, Chianti Shire. Bellissimo. Sì, queste sono le perle del mio lavoro. E dici un po', dici altre perle, ad esempio gnocchi? Oh, sì. Quanto mi piace gnocchi, perché... Senti, la più, quella che... allora, io sono molto paziente, perché sono un mediatore culturale, quindi ho imparato ad avere molta pazienza. C'è una parola, però, dove sono proprio intollerante. Qual è? Dici un po'. La parola è bruschetta. Una bruschetta? Ancora una parola per mangiare, sì. Sì, quante ce ne sono gli italiani. Poi è anche molto divertente andare in giro, viaggiare e trovare questi appunto ristoranti italiani che, sì, come dicevo prima, è bello che ci siano, però magari ce ne sono un po' troppi. E insomma, il cibo autentico chissà se lo è, e soprattutto i menù esposti fuori. Ah, sì. Ci sono delle cose meravigliose, i linguini. Sì, delle cose straordinarie, alcune di queste non possiamo menzionare. Esatto, diciamo, sono un po' forti. Ad esempio le penne genovesi, diciamo, senza troppe doppie. Ragazze, però sì. Ragazze, scusate, sì. Eccola Tiziana, dici tutti. Abbiamo un altro radioascoltatore che ci chiama. E chi è? Stavolta vuole intervenire in studio perché vuole parlare direttamente con le due simpatiche presentatrici. Ma che facciamo? Lo facciamo parlare? Lo facciamo parlare, dai. Facciamolo parlare. Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Con chi parliamo? Sono Giovanni. Giovanni, da dove chiami? Ciao, chiamo da Aosta. Giovanni, che dicesti? Giovanni, non ho capito, puoi ripetere per favore? Sono Giovanni, chiamo da Aosta. Ah, da Aosta? Sì, che meraviglia! Sei una città tanto bellina, piccolina, sta in su nel nord dell'Italia. Voi siete un po' lontani perché vi sento che siete di giù, ma di giù di brutto. Di brutto sì, dici tutto Giovanni! Simpatici comunque! Ah, grazie Giovanni, Giovanni. Grazie! Meno male che c'è un po' di allegria del nord, Giovanni! Proprio bravo! Ma perché non ci vieni a trovare? Anch'io una volta insegnavo l'italiano. Anche tu? Dai, allora raccontaci, dici un po' dove. Insegnavo ad Aosta. Insegnavi ad Aosta? È bello, e quanti studenti avevi? Dici un po', Giovanni, ma che gli ha insegnato a questi studenti? Ma adesso non insegno più. Allora. No, ho cambiato lavoro. Hai cambiato lavoro, Giovanni? Cosa fai, Giovanni? Cosa fai? Cosa faccio? Cosa fai? Esporto formaggi. Hai fatto un salto di qualità, Giovanni! Veramente, sì, complimenti! Bravo Giovanni, avrei fatto pure un sacco di soldi! Simpatici, davvero, davvero! Grazie Giovanni! Seguici! A parte, io non so se mi sente quello lì là che prima mi ha risposto al telefono. Sì, sono io! No, non ti sente, dici quello che vuoi! Simpatiche! Grazie Giovanni, sei un tesoro. Ti ho sentito, Giovanni, ti ho sentito. Giovanni, senti. Va bene. Mi raccomando, collegati su Facebook, fatti sentire. Posso fare una richiesta? Certo, Giovanni, per te questo è d'altro. Posso fare una richiesta? Io volevo salutare la mia zia. Sì? Che sta a casa da sola, ma che lei penso che ascolta la radio. Oh, che carina. Ciao zia. Ciao zia, salutiamola. Poi volevo fare una richiesta, una canzone che ho nel cuore da quando ero bambino. Hai una richiesta? Allora no, dai, dici Giovanni, quale canzone vuoi sentire? Una canzone nel cuore da quando ero bambino. Da quando eri bambino? Casetta in Canada. Una casetta in Canada. E dai, allora te la cerchiamo, vediamo, Giovanni. Vediamo, dai, dobbiamo esaurire questo desiderio. Mi rendete proprio felice. Ti rendiamo proprio felice, Giovanni, non possiamo non farlo per te. Grazie di averci chiamato, Giovanni. Siete tanto simpatici. Senti, salutaci a Aosta, per favore. Salutaci tutti i tuoi amici. Va bene. Lo dirò, tanti saluti dai terroni della radio. Bravo, e se passi da Bruxelles, porta 4 formaggi, Va bene, con piacere. Grande, ciao Giovanni, un abbraccio. Ciao amici. Ciao Giovanni. Ah, che bello, c'abbiamo pure, c'era pure l'insegnante di italiano della Valle d'Aosta. Che grande. Salutiamo la zia, l'abbiamo salutata la zia di Giovanni? Salutiamola. Ciao zia. Benissimo ragazzi. E allora sì, quindi dicevamo Irene, sì. Torniamo un attimo a noi. Quindi, dici un po' di te, dici un po' che cosa fai tu a Bruxelles, perché insomma abbiamo parlato che sei stata, hai insegnato l'italiano all'estero in Italia, che il tuo lavoro insomma è un po', cioè, poco riconosciuto magari dagli italiani, però non all'estero, che dici? Funziona. Questo è importante, concordo. È una cosa grandissima. Sì. Dunque io lavoro qui a Bruxelles, sono molto attiva, devo dire. Sì, molto attiva è un modo per non dire, sono una esplosione di energia. Sono una dovete sapere che io provo a chiamare Irene al telefono, ci riusciamo a non vederci per mesi e mesi e poi ci raccontiamo il flusso di azioni e di cose che abbiamo fatto, Irene. Questo è un piccolo problema mio, il tempo sempre. Allora, dunque, io insegno qui a Bruxelles, insegno al Lycée Français, insegno quindi agli adolescenti. Ok, che età hanno? Dai 16 ai 18 anni. Poi insegno all'Istituto Italiano di Cultura, dunque tengo corsi per gli adulti. E collaboro con una casa editrice che si occupa di testi specializzati per l'insegnamento della lingua italiana e collaboro con la società Dante Alighieri, il comitato di Bruxelles, per il quale mi occupo delle certificazioni linguistiche in italiano. Queste certificazioni si chiamano esami PLIDA E se questo ascoltatore è interessato a... Guarda, c'è un altro ascoltatore, infatti. C'è un altro ascoltatore. Ma io sono interessata, re. E chi è questo? Sì, beh, prego. Sì. Questi esami PLIDA, se volete saperne di più, contattate la Dante Alighieri di Bruxelles e la certificazione dell'italiano è una... come dire, una carta ufficiale che riconosce la sì, tua perché competenza. Nonostante abbiamo detto che magari non è molto utile al lavoro, però con l'italiano, proprio per quanto è diffuso l'insegnamento dell'italiano agli stranieri, è una cosa che si può rigiocare, no? Magari. Certo. E ragazzi, ma che state facendo di là? Allora, immaginatevi, ragazzi, io parlo con i telefonata, qua la c'è un'altra telefonata, che c'è un'altra succede? Telefonata, ma la mandiamo in onda, forza, forza. Pronto? Pronto? È caduta la linea. È caduta la linea, Carusi. È caduta la linea. È caduta. Niente, non c'è problema. Che poi stavo pensando, Irene. Torniamo a Dante Alighieri. Dimmi. È uno dei primi istituti che ha diffuso l'italiano nel mondo, soprattutto leggevo in Latin America, in Argentina, dove l'italiano è la prima lingua studiata dopo lo spagnolo. Beh sì, per forza, certo, perché nel Sud America, per esempio, ci sono tutte le comunità italiane. Che ormai sono terza, quarta generazione di emigrati italiani, ma insomma noi siamo in Belgio qui e il Belgio è storicamente una terra di emigrazione, no? Sì, certo. Quindi sì, noi siamo andati dappertutto, abbiamo esportato la nostra cultura, il nostro cibo, la nostra lingua. Sì. E questo ci rende onore, ragazzi, ricordiamocelo, insomma. In Belgio c'è veramente una comunità italiana fortissima. Esatto. Che è un diciamo un mélange di differenti tipi di persone che vengono per differenti motivi o sono venuti nei decenni passati per differenti motivi. Sì. Tutti convivono, diciamo, cioè hanno degli spazi nelle nostre sì. istituzioni, per esempio l'Istituto Italiano di Cultura, dove la gente può venire, libera di venire, c'è una bella biblioteca. Esatto. Perché vorrei ricordare, ricordiamo, che quanti eventi organizzano anche all'Istituto di Cultura. L'Istituto Italiano di Cultura organizza tantissimi eventi di tantissimi generi. Uno di cui mi sono occupata io la scorsa settimana riguarda proprio la letteratura italiana ed era una lettura di poesie al femminile, cioè di poetesse italiane. Che bello. Sì, però ci sono anche tantissimi eventi, c'è il cinema, e poi io insisto, c'è una bellissima biblioteca all'Istituto Italiano di Cultura. Lo ignoravo, si possono prendere i libri in prestito? Si possono prendere i libri in prestito, okay. Perché per fortuna qui a Bruxelles abbiamo anche la nostra bella libreria italiana. Bene, non lo sapevo mica. Ragazzi, altra telefonata. Questa è una serata piena di telefonate. E di sorprese. Vediamo un po' chi c'è in linea, vediamo un po'. Pronto, con chi parlo? Ciao, sono Serena. Ah, la Serena Ferti. Esattamente. È arrivata, ragazzi. Benissimo, benissimo. Allora, Serena, senti, allora tu sei la nostra blogger, la nostra travel blogger, perché sì, starai con noi per le prossime puntate e ci racconterai un po' dei viaggi, no? Dici un po', che cos'è una travel blogger? Allora, innanzitutto la travel blogger è un po' un termine per indicare chi ha un blog in internet dedicato appunto ai viaggi, quindi diciamo nasce tutto da un amore un po' per la scrittura da una parte e dai viaggi per l'altra, quindi si pubblicano post e foto in internet per raccontare appunto quello che si vive in viaggio. Che bello, è una bellissima cosa. Senti, allora, che ne dici di proporci questa sera la prima meta, dove ad esempio dove potremo andare il prossimo weekend? Allora, vi porto dove andrò io. Il prossimo weekend sarò in Friuli Venezia Giulia, una regione che anch'io ho scoperto recentemente e devo ammettere che è veramente molto interessante proprio per le tante opportunità che offre. nel mio caso vi dico un po' insomma che cosa, quale sarà l'idea. Innanzitutto andremo a Tesaris, che è il paese degli orologi, quindi praticamente un paese dove si possono trovare praticamente orologi antichissimi con questi meccanismi incredibili sparsi un po' ovunque. Andremo poi a Sauris, alla festa arte del borgo, con intagliatori e scultori, gite in carrozza e degustazioni. Wow. Una sorta di una sorta di galleria a cielo aperto del legno. Andremo anche alla ricerca insomma di botteghe artigiane sparse insomma nella Carnia. Che meraviglia, Serena. Guarda, noi ti ringraziamo tantissimo. Che adesso... Io direi che Serena ci devi dare, devi pubblicare, metteremo sulla pagina Facebook tutti i dettagli di questo viaggio. Mi raccomando, Serena. Metti tutto, così ti seguiamo, perché tu mi dici che sì, così ci illustrerai un po'. Troveremo tutto sul sito internet. Serena, dici il sito internet velocemente, che ti dobbiamo salutare. Allora, trovate tutto su Turisti per Caso, Blogger per Caso, oppure GoLiveFVG. In ogni modo vi linko tutto su Facebook, così non avrete difficoltà. Fantastica! Brava Serena, ti ringraziamo presto, un abbraccio! Benissimo, e allora purtroppo il tempo vola, la serata...